Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Quando lui canta a Sally, cammina sul bordo del palco con le braccia aperte, tipo un equilibrista. Ecco, questo lui lo faceva per lei. Sally era Olga. A un certo punto intervenne Vasco, che pagò di tasca sua i migliori oncologi di Bologna per farle fare delle visite. Ma niente da fare. Può invertire i fattori, ma il risultato rimane lo stesso. Storie di amore e di musicisti generosi in una puntata che si intitola La vita è un brivido che vola via. Ah, Matt, di là ci sono due tizi vestiti da impresari delle pompe funebri. Da che cosa? Devono essere sbirri della CIA o roba del genere. Che cosa hanno ordinato? Quello alto vuole pane bianco tostato liscio, con niente sopra. Elwood. E quell'altro ha ordinato la bellezza di quattro polli fritti, figurati, è una coca. E Jack, Christy Blues Brothers! Ciao, Jack! Matt! Ciao, Elwood! Allora, come si stava in galera? Ah, un cesso. Facevano un'anatra all'arancia schifosa. Non può essere peggio della Chateaubriand che fanno al carcere di Terre Haute. O della Bechamel del penitenziario della Contea di Cook. Le cucine federali sono in ribasso. Matt, io ed Elwood vogliamo rimettere insieme la banda. Ci servi tu e Blulu. Oh, amico, non dire certe cose qua dentro. La mia vecchia mi fa secco. Signora deve capire che questo è un affare più importante di qualunque problema familiare che possiate avere. Matt, di che diavolo state parlando? Non t'arrabbiare, tesoro. Non cominciare col tesoro che t'ho capito. Io ti dico che in giro per il mondo non ci vai più e non suonerai più in quei localacci da quattro soldi. Tu vivi con me adesso. E non ricomincerai a fare il vagabondo con quei pezzenti dei tuoi amici bianchi. Ma pupa, questi sono Jack ed Elwood, i Blues Brothers. I Blues Brothers? Che stronzo. Ma se ti devono ancora un mucchio di soldi? Signora, la conforterebbe in qualche modo sapere che quello che stiamo chiedendo a Matt di fare è una cosa sacra? Vede, siamo in missione per conto di Dio. E tutto questo accade pochi secondi prima che Aretha Franklin, di cui avete sentito la voce della doppiatrice italiana, inizia a cantare quello splendido pezzo che è Think, che canta nel locale, nella cucina. Sono lei e John Lee Hooker che sono i protagonisti di questa scena dei Blues Brothers, un film che ovviamente non ha nemmeno bisogno di essere raccontato. Se non l'avete visto, siete fortunatissimi, perché questa sera stessa lo potete vedere. The Blues Brothers lo trovate sicuramente da qualche parte, potete godervi anche questa scena. Siamo in missione per conto di Dio, questa è una delle frasi iconiche di questo film, e noi l'abbiamo utilizzata per aprire questa puntata che ha un titolo particolare: La vita è un brivido che vola via. Insomma, non solo gli affezionati di Vasco conoscono questo brano, perdonatemi, questo verso, e quindi tutti vengono riportati là a quel pezzo di quella canzone che è Sally. E c'è un motivo molto preciso, ed è che la prima storia che vi raccontiamo, la storia di questo ascoltatore che c'è arrivata a linee d'ombra @radio24.it, parla di Vasco, parla di come la vita davvero assomigli a quel brividino lì che se ne va, e parla anche soprattutto di un amore, direi, anche se non lo definisce come tale, anche se parla di un'amica. Io ci tengo moltissimo a fare una piccola introduzione a questa storia, perché noi siamo in onda alle 3 del pomeriggio e raccontiamo storie di confine, e questa è senza dubbio una storia di confine tra la vita e la morte, l'esserci e il non esserci. E spesso mi trovo a parlare con delle persone che mi chiedono quali sono le storie che raccontate, come scegliete le storie da raccontare, e io rispondo sempre in un unico modo: se una storia è una storia, cioè se ha uno sviluppo, se ha dentro un'azione che cambia quella persona, se ha dentro quel confine lì, quella linea d'ombra, quella è una storia e noi la raccontiamo. Però ci sono altri che dicono: ma con le storie, ad esempio, molto tristi, come fate, come le trattate? Magari le storie, diciamo, più riflessive hanno meglio di un altro orario, fanno meglio, perdonatemi, ad essere trasmesse in un altro orario. Io penso invece che coi toni, coi modi giusti, si possano raccontare tutte le storie in qualsiasi ora, e dirò di più: a chiunque, anche a, a persone che magari non sono abituate a sentire certe storie. Parlo di bambini, ad esempio, di persone più anziane. Magari ci sono alcuni che sostengono che storie molto contemporanee, che hanno a che fare con il mondo come oggi, alcune persone anziane non riescono a capirle. Penso che non sia assolutamente così. Penso che devono trovare le parole, i modi giusti, e qualsiasi storia, proprio perché è un pezzo di realtà, possa essere raccontata e compresa. Ecco perché oggi vi raccontiamo questa puntata. È una puntata sicuramente per gli amanti di Vasco Rossi, perché in questa puntata scopriamo che enorme cuore abbia, se per caso qualcuno avesse dei dubbi, Vasco Rossi. Scopriremo anche che enorme cuore abbia Elton John, perché parleremo di una storia che parla anche di lui nella seconda parte della puntata di oggi. Prima però vi chiederei di stare davvero davvero molto addosso alla storia di Luca. È una storia intima, è una storia privata, ed è una storia che ha riguardato la sua vita molto molto da vicino. Quindi mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'Ombra. Ci siamo conosciuti per caso nel 2004, perché è col caso, con quella unica grande legge che governa le vite di ognuno di noi, la casualità, che avvengono le cose che ci cambiano, ci segnano, ci graffiano, ci trapassano. Questa storia parla di me, Luca, di lei, Olga, e di un terzo, e un terzo non da poco, perché il terzo, per nulla incomodo, è Vasco Rossi. Era l'anno dell'album Buoni e Cattivi, l'anno del tour da seguire ovunque, come sempre, come un rito tra amicizie, canzoni e amori per una notte. E sul sito ufficiale di Vasco, il cosiddetto muretto, quella pagina per i fan dove puoi lasciare un commento, scrivere quello che vuoi, cosa pensi, lì io ci andavo spesso, però non scrivevo mai di Vasco Rossi, scrivevo di vita, di momenti, di rabbia, di lacrime. E lei notò questo commento e cominciò a rispondermi, per poi passare alle mail. Una sera mi scrisse che era in ospedale a Pisa. Il giorno dopo sarebbe stata operata di un tumore al seno, niente di irreparabile, un piccolo nodulo bastardo che ti fa tremare gambe e cuore. Mi disse che si stava annoiando, se avevo qualche libro da consigliarle. Avevo finito di leggere da poco un libro bellissimo, si intitola Quattro amici, di David Truba. Le dissi di leggerlo. Un'avventura on the road che le sarebbe piaciuta. Lei, così viva, così ribelle, così selvaggia, seppure già ferita dalla vita. Olga viveva vicino a Roma, ad Ardea. Un figlio ancora troppo piccolo per capire tutto. Un marito per caso che in un attimo si era eclissato per lasciarla sola anche nei momenti peggiori. Fatto il primo intervento, continuammo a scriverci ogni giorno. Spesso prendeva un treno col figlio al seguito, direzione Pisa, dove in un ospedale faceva visite periodiche e cure post-intervento. Tra le une e le altre mi scriveva aggiornandomi sulla situazione e su ciò che le dicevano i medici. Passati vari mesi, si rimise a posto. Era il 2005. Sembrava guarita, la guerriera che vince la guerra. E invece aveva vinto solo la battaglia. Solo una. Troppo poco. È nato un rapporto che è andato oltre l'amicizia, perché poi cosa succedeva? Che andavamo a vedere i concerti, dopo il concerto normalmente ti prendevi un bed and breakfast, una camera d'albergo, e alla fine andavamo a dormire assieme, anche per una questione di risparmio soldi, così prendevi una camera, e ovviamente una cosa dietro l'altra poi è nata una relazione. Io e lei e Vasco l'avevamo visto dappertutto, da Palermo ad Aosta, a Cagliari, Roma, Bologna, Firenze, Milano, ovunque. Abbiamo passato estati a seguire Vasco. Se faceva 15 date in tour, noi le facevamo tutte. Ore davanti al palco, ore tra viaggi e treni, auto, aerei, da nord a sud, non c'era argine alla nostra follia. A un certo punto Vasco era diventato solo un bellissimo pretesto per stare insieme, per condividerci, per baciarci, per fare l'amore, per vivere le città, visitarle e camminarci dentro nelle notti estive e silenziose. Mentre tutti dormivano, noi respiravamo la notte come non ci fosse più il mattino. Memorabile la volta in cui, senza preavviso, presi un volo per Palermo. Vasco cantava lì, senza biglietto. Glielo dissi quando ero in aeroporto a Torino. Lei non esitò un secondo. Via Fiumicino, aereo e anche lei a Palermo. Arrivai per primo, il tassista mi disse che il velodromo era in un brutto posto, mancavano molte ore e stare lì non era piacevole. Mi disse che mi portava a Mondello, luogo magnifico. Nel frattempo sarebbe tornato in aeroporto e con un cartello col mio nome avrebbe aspettato Olga per portarmela proprio a Mondello. Sempre in giro, sempre con lo zaino in spalla. La sacra bottiglietta d'acqua, il panino schiacciato da mangiare, sfiniti, seduti su un marciapiede fuori dallo stadio o davanti all'ingresso degli after show, dove noi non entravamo mai, ma facevamo entrare gli amici. Io ed Olga stavamo fuori, stavamo nel buio della notte ad ascoltare il silenzio e i timpani che fischiavano per i decibel del concerto appena vissuto, l'ennesimo. Roma, Milano, Torino, Palermo, Ancona, Firenze, Catanzaro, dappertutto a vivere la vita, a cantare insieme e poi dormire per terra, nelle stazioni, negli aeroporti, in ogni angolo scomodo e qualche volta anche in hotel, in attesa della mattina. Olga ed io eravamo amici di Tania, manager di Vasco. Loro due legarono subito. Così facendo aveva accesso ovunque, sempre accompagnata da Tania. Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Canzone per te. E non ci credi, eh? Sorridi e abbassi gli occhi un istante e dici non credo di essere così importante. Ma dici una bugia, infatti scappi via. Poi tutto si fermò di colpo, come un film che metti in pausa, come qualcosa che rimane lì, così, che ti trapassa e ti toglie il fiato. Lei ricominciò a stare male, ad essere debole, sempre di più. Ricominciò con le visite sempre più frequenti, gli esami referti, le sentenze spietate, le poche righe che scrivono l'ultima pagina di un'esistenza a metà. A un certo punto intervenne Vasco, che pagò di tasca sua i migliori oncologi di Bologna per farle fare delle visite, ma niente da fare. Può invertire i fattori, cambiare i dottori, ma il risultato rimane lo stesso. Tumore alle ossa, senza speranza, senza cura, senza storia. Ricoverata in ospedale a Roma, arrivò al punto di essere dimessa, cure a casa, morfina, basta così, non è più vita, è solo dolore. Il nostro legame divenne sempre più debole, lei mi disse che non voleva sentire nessuno, non ne aveva neanche la forza, voleva stare da sola. I messaggi rimasero senza risposta e col tempo, per non disturbare, non chiamai più. Rimasi così a Torino, a 500 km da un'amica che stava morendo giorno dopo giorno come una fiamma flebile che resiste a stento al vento feroce soffiato da un mostro e alla fine si spegne. Un giorno squillò il telefono, non era il suo numero che avevo in memoria, era un altro e risposi, era lei. Ricordo ancora ad oggi, a distanza di tanti anni, il punto esatto dove mi trovavo, in pieno centro, a Torino, corso Vittorio Emanuele. La sua voce era fragilissima, si confondeva con il rumore del traffico. Io dovetti sedermi sul marciapiede, annichilito dal dolore di quella telefonata. Era una bellissima giornata di sole, ma per me il sole non c'era. Non lo vedevo, non lo sentivo, era indifferente. Mi disse che voleva salutarmi, mi chiese quasi con normalità come stavo, cosa stessi facendo. La sua voce quasi impercettibile. Le dissi, dimmi cosa posso fare, Olga. Lei rispose con una sentenza. Devi vivere, mi disse. Non c'era più, non era veramente proprio alla fine e io dopo mi resi conto che quella era stata la sua ultima chiamata come una forma di saluto, perché da lì a poche settimane lei poi morì e quando io le dissi al telefono Olga, dimmi cosa posso fare per te, se posso fare qualsiasi cosa, ma sapevo che non potevo fare più niente, però era proprio quasi una forma disperata per comunicare quasi con lei, e lei tranciante mi disse, Luca, tu devi vivere. Era l'ultima chiamata, l'ultima volta. Mi alzai, attraversai la strada, salì in macchina e scoppiai a piangere, mentre il mondo se ne fregava di me. Non c'è tempo né posto per le lacrime in questo pianeta di fenomeni. Durò qualche mese, morì a casa sua, una villetta tra le villette. Il giorno del suo funerale presi un aereo da Torino, arrivai a Fiumicino, ma non c'era nessuno che potesse portarmi al suo paese, era una cittadina fuori mano. Mi misi d'accordo con un tassista, gli spiegai la situazione, il costo era notevole. Ci mettemmo d'accordo per 200 euro andata e ritorno, lui sarebbe stato lì ad aspettarmi. Alla fine partecipò anche con me al funerale, fu un gesto che apprezzai molto. Il 12 novembre 2007 Olga uscì da casa sua per l'ultima volta. sulle note di Sally. Perché non è stato poi tutto sbagliato, perché forse qualcosa si è salvato, perché Olga era Sally, anzi, Sally era Olga. Mi disse che aveva piantato un albero di limoni nel suo giardino, come un lascito, come un testimone che il tempo e la vita che passa avrebbero fatto crescere come un eterno ricordo immortale. Ogni tanto mi chiedo se è ancora lì. Dopo il funerale il tassista mi riportò in aeroporto. In realtà non ero lì in macchina con lui, non so dove fossi, ma non ero lì. Ero perso dentro di me, in quei luoghi che tutti abbiamo, dove non c'è mai luce, dove nessuno arriva mai, dove entriamo solo noi. E non è mai per qualcosa di bello, ma sempre per qualcosa di intenso che ci trapassa per sempre. Scesi dal taxi, dopo aver pagato, rimasi fuori dall'aeroporto. Continuava a piovere. Osservavo la gente con aria indifferente, come Sally, come Olga. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Tornai a casa esausto, ma forse non tornai mai del tutto. Qualcosa di me era rimasto là. È rimasto con lei. Anche solo per farci compagnia, per aspettare un altro concerto in cui guardarci e sorridere mentre urlavamo con Vasco che volevamo trovare un senso a questa vita, ma questa vita un senso non ce l'ha. No, non ce l'ha. Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per te. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sally ha patito troppo. Sally ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Questa puntata ha un titolo che è riconoscibile, direi, per chiunque. Lo dicevo già in apertura, non solo per i fan di Vasco Rossi. L'abbiamo intitolata La vita è un brivido che vola via, perché è sì un verso di Sally, ma è soprattutto, secondo noi, quando abbiamo letto questa storia, la storia che ci ha mandato Luca, la storia di Olga, ci sembra un titolo che sia, insomma, perfetto per raccontare la storia di questa giovane donna. E siamo felici di avere Luca al telefono con noi. Pronto, ciao Luca, buongiorno. Ciao Matteo, ciao a tutti, ciao, buongiorno. Come stai? Luca era già stato con noi per, diciamo, per i fan di Linee d'Ombra, quando ci aveva raccontato la storia di un innamoramento durato il tempo di un viaggio negli Stati Uniti e poi terminato proprio nel momento in cui lui prendeva il volo per Milano, lei per Roma. Ricordo bene, Luca? Esatto, sì, proprio così, una storia on the road. Senti, la storia di Olga è una storia bellissima e anche difficile da raccontare. Immaginiamo che sia stata molto difficile da vivere, visto che di fatto era una amica. Tu in onda non si possono vedere le virgolette, tu hai scritto amica virgolettato perché immagino che ci fosse un rapporto molto particolare tra voi due. Sì, assolutamente, era un'amica tra virgolette, perché inizialmente è nato tutto con un'amicizia tramite il sito ufficiale di Vasco, poi si è tramutata in qualcosa di più. Il tutto legato a doppio filo con Vasco e tutti i suoi tour, i suoi concerti, le sue canzoni, e ovviamente poi con tutto quello che lei ha vissuto, perché è stata una ragazza, che dire sfortunata è davvero un eufemismo, perché le è andato davvero tutto male. E quindi è stata una storia molto dura, molto cruda, direi feroce anche. Quanti anni aveva quando è mancata Olga? Olga aveva 33 anni, era molto giovane. E tu quanti anni avevi in quegli anni? Eravate coetanei? Guarda, sono passati 13 anni, io ne ho 49. Ne avevi 36. Esatto. Ero bravissimo in matematica, ragazzi, proprio una roba, un fulmine di guerra. Senti, l'amicizia con Tania, la manager di Vasco, come è nata tra Olga e questa... Certo, è nata perché io ho sentito Olga la prima volta per telefono dopo che ci siamo scambiati il numero, e lei era ricoverata in ospedale ed era la vigilia di Natale e lei si stava annoiando molto. Allora mi scrisse un messaggio dicendomi se avevo qualche libro da consigliarle, e io le dissi di leggere Quattro amici di David Troeva, perché avevo appena finito e mi era piaciuto tantissimo. poi abbiamo continuato a scriverci, a sentirci così. Io nel frattempo via mail a volte mi scrivo anche con Tania, e quando le ho parlato di questa ragazza, di questa situazione, lei ha avuto immediatamente il numero di telefono. È una donna molto pragmatica, quindi va subito al sodo, ha avuto subito il numero, si sono messi in contatto, tra di loro, e tra di loro è nata una bellissima amicizia, e Tania l'ha presa sotto la sua, diciamo, ala protettiva. E da lì Olga ha avuto poi accesso anche allo stesso Vasco, ha avuto la possibilità di incontrarlo, di vedere mille concerti, li faceva anche con me, sempre con, diciamo, Tania che controllava a distanza, perché ovviamente poi è venuta a conoscenza del problema di salute di Olga, della situazione che in un primo momento è andato bene, perché lei era stata operata per questo tumore al seno, era guarita, era a posto, poi purtroppo ha avuto una recidiva terrificante e non c'è stato più niente da fare. Senti, tu sei più andato a dei concerti di Vasco? Sì, assolutamente, io sono arrivato a vederne 105. Wow. Sei proprio uno dei duri e puri, insomma. Sì, abbastanza, però l'ho sempre vissuto in maniera, diciamo, laica. Bravissimo, esatto. Sì, non ho mai fatto quello che si strappa i capelli, o quello che non ho anche mai voluto incontrarlo. Quando c'era la possibilità con Olga anche di andare agli after show, noi magari facevamo tramite qualche conoscenza, poteva essere Tania, poteva essere Valeria, che era la segretaria di Vasco, facevamo entrare le altre persone, io e Olga stavamo fuori magari sul marciapiede a goderci la notte e a chiacchierare, a parlare tranquillamente, quindi il rapporto era questo. Senti Luca, sono passati 13 anni, sì. Però si sente dal tuo racconto, della storia, che è ancora molto viva, non solo la memoria, ma è come se fosse viva un pezzo dentro di te, di questa persona. Che cosa ti è rimasto di lei? Cioè, in che modo tu sei diventato un po' diverso grazie ad Olga? Di lei mi è rimasta la purezza e l'energia, cioè lei ha avuto veramente una vita complicatissima sotto mille aspetti, ma aveva 10 volte più energia di me. Lei trovava sempre il modo per guardare avanti, per lottare, per combattere, proprio come dicono anche alcune canzoni di Vasco. Lei era veramente forte, poi c'era un rapporto molto stretto tra me e lei, indipendentemente da questo, però mi ha lasciato il segno per come era lei, per come viveva la vita e come ha combattuto fino all'ultimo. Poi era veramente una donna molto molto intelligente. Senti Luca, quando è il prossimo concerto di Vasco? Chi lo sa? Il prossimo concerto probabilmente l'anno prossimo, si spera, virus permettendo, poi vedremo come vanno le cose. Certo. Certamente anche nei concerti c'è sempre magari il ricordo di quel momento vissuto, che può essere a Palermo, a Bologna, a Milano, magari insieme anche ad Olga, o le nottate passate dopo a parlare dentro una stazione o dentro un aeroporto, a seconda di dove, certo, dove eravate. Luca, grazie due volte anche per questa storia e in bocca al lupo per tutto. Fai una buona estate. Quando vuoi, la tua storia sai dove mandarci. La linea d'ombra @radio24.it. Vi ringrazio anche voi, buona estate anche a voi. Ciao, a presto, grazie mille. Ciao. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linea d'Ombra. Elton John oggi ha 73 anni ed è una superstar globale. E sembra difficile crederci, ma anche lui per un certo periodo è stato un giovane aspirante cantante. Sul finire degli anni 60 conobbe a Sheffield Linda Hannon, si innamorò di lei e lei di lui e andarono a vivere insieme. Stavano progettando di sposarsi, ma poi le cose cambiarono. I due si lasciarono e le loro strade si divisero per sempre. In questa puntata che si intitola La vita è un brivido che vola via, la seconda storia di oggi è proprio la loro. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Mancavano poche settimane al matrimonio, racconta Linda. Avevamo mobili nuovi e un appartamento a Mill Hill, a nord di Londra. Sua madre aveva già ordinato la torta nuziale. ma poi è successo qualcosa, qualcosa che ha interrotto bruscamente la loro relazione. Elton John lasciò Linda su consiglio del suo braccio destro, Bernie Taupin. Durante l'addio al celibato, Bernie convinse Elton John che il matrimonio con Linda avrebbe rovinato due vite, la sua e quella di Linda. Lui e Linda si lasciarono male ed Elton, dopo anni sulla vicenda del suo matrimonio, scrisse la canzone Somebody Saved My Life Tonight. Il successo invece lo ottenne più in fretta. Sei mesi dopo la rottura con Linda, nel 1970, incise Your Song, la sua prima grandissima hit. Nonostante il brutto colpo, Linda cercò di lasciarsi tutto alle spalle e di andare avanti. 9 mesi dopo la sua separazione con Elton, Linda sposò James Bowens, ma si separarono poco dopo, ammettendo di essere ancora innamorata del cantante. Quindi sposò Tony, che diventò il padre dei suoi figli, James, Oliver ed Alex. Poi però divorziò anche da lui, anche da Tony, e si sposò con un'altra persona, William. Lei si trasferì con lui negli Stati Uniti e anche con lui la relazione si concluse. «Sono da sola e ho 3 figli», racconta. «Non ho mai incontrato nessuno con cui sia scattata davvero la scintilla». Dopo che Elton John chiuse la loro relazione 50 anni fa, le loro vite presero strade molto diverse. Linda lo aveva conosciuto come il semplice vecchio Reginald Dwight, per gli amici Reg, e aveva sostenuto l'aspirante rockstar prima che raggiungesse il successo. E mentre Elton, 73 anni, è oggi una superstar globale, Linda vive una vita normale come dirigente dell'ufficio medico a Dallas, in Texas. Da allora non si sono mai più visti né sentiti. Ma il risentimento di Linda è sfumato presto e al contrario ha assistito con affetto all'ascesa e al successo straordinario del suo ex amante. Così, quando nella primavera di quest'anno si è ritrovata in difficoltà, i suoi pensieri si sono rivolti al vecchio amore a cui si riferisce ancora come Reg. Linda, che oggi ha 76 anni, era in sofferenza negli ultimi mesi a causa di un ginocchio che necessitava di un'operazione, ma sapeva anche che non poteva permettersi di prendersi 5 settimane di lavoro per la riabilitazione post-intervento. «Il mio ginocchio era a pezzi», racconta. «Non riuscivo più a camminare e la pandemia ha complicato la mia già complicata situazione finanziaria. Così ho pensato a Reg, magari lui avrebbe potuto aiutarmi». Nonostante il modo in cui le cose sono finite tra noi, siamo stati felici insieme, in un momento in cui inseguivamo i nostri sogni. Andavamo in studio di registrazione di notte, racconta, e ascoltavo le sue prove, e andavo molto d'accordo con sua madre, Sheila, e il suo patrigno. Stavo spesso con loro. Ho inviato un paio di email al suo staff e ho inserito un paio di dettagli che solo lui avrebbe potuto ricordare, come ad esempio la volta in cui abbiamo avuto un incidente in auto mentre stavamo andando dai suoi genitori a pranzo, oppure di quella volta in cui io, lui e mia madre prendemmo il treno insieme per raggiungere mio fratello a Newcastle per il suo compleanno. Reg si presentò con un abito verde bottiglia. Pensò che fosse l'unico che avesse. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Nonostante l'enorme mole di corrispondenza che la star riceve dai fan, Linda era abbastanza sicura che se Elton John fosse venuto a conoscenza della sua lettera, avrebbe ottenuto un aiuto. Non da ultimo perché lei aveva aiutato lui anche economicamente prima che raggiungesse il successo. Linda ha dichiarato: «Alla fine degli anni 60, Reg non guadagnava molto. Ero io a pagare l'affitto, le bollette e il cibo». Dopo qualche settimana senza ottenere risposta, Linda non ha perso le speranze. Ha contattato il Daily Mirror e ha chiesto al giornale di provare a contattare il cantante attraverso un ufficio stampa. Attraverso quest'altra strada ha ottenuto risposte in tempi molto brevi. Quando Elton ha saputo della difficile situazione di Linda, ha detto il suo ufficio stampa, non ha esitato per un secondo a darle una mano. Ha ricordato quanto fosse bella e quanto l'avesse aiutato 50 anni fa, quando era lui ad avere bisogno di lei, ed è davvero contento di poter ricambiare. Oggi racconta a Linda di essere molto commossa. Dopo tutti questi anni è stato molto gentile. Sono così felice che si sia ricordato di me, nonostante il successo e il tanto tempo passato. E sono anche felice per lui che abbia trovato il suo vero amore in David e che abbia dei figli. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Questa è una storia che abbiamo trovato sul Daily Mirror, che appunto racconta di questa coppia che non è più una coppia da tantissimi anni, e lui l'ha aiutata in un momento di bisogno che, chissà per quale motivo, se riguarda una persona normale è semplicemente un che carino, e invece se riguarda una star, improvvisamente nella nostra testa o nella nostra pancia diventa qualcosa di quasi eroico, come se ci dimenticassimo che le star sono prima di tutto degli esseri umani. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra a raccontare la nostra storia seriale. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra, il problema dell'acquisto di un nuovo veicolo. Ma è meglio aspettare ancora. A questo punto ci pensiamo dopo l'estate. A destra, guarda che i contributi scadevano il 31 agosto. Cosa? No! Non sempre si può tornare indietro. A luglio e agosto Volkswagen Veicoli Commerciali offre 6 milioni di euro di contributi sui veicoli in pronta consegna. Se te li fai sfuggire, perdi fino a 6.000 euro di vantaggi su Transporter e il service plan incluso se attivi il leasing. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. Linee d'ombra. Io appartengo a quella generazione che ha fatto in tempo ad avere dei nonni che hanno conosciuto non solo la guerra, ma la miseria vera, quella che ti faceva festeggiare quando a Natale ti regalavano un mandarancio o un'arancia. Era una cosa che mia nonna mi diceva sempre quando a novembre apparivano le prime arance sul tavolo. Queste io ce le avevo solo a Natale. E queste sono le frasi, sono i ricordi che, come sempre, essendo delle micro storie, rimangono più impresse nella mente di chi ascolta. Ecco perché la storia di Antonina Azzotti, che è una storia di una bimba orfana di padre ucciso dalla mafia, che stiamo raccontando in questi giorni, rimane impressa per dei piccoli appigli, perché quando si racconta di povertà, quando si racconta di miseria, è complicato farla capire se non attraverso delle immagini, se non attraverso qualcosa che è oggettivo ed è concreto. E quindi nella storia che sentirete oggi, a un certo punto sentirete Antonina, la mia voce, ma in grosso modo sono in realtà le parole di Antonina, che dice che loro non avevano soldi per i libri di testo in famiglia e quindi doveva scambiarseli con le altre ragazze del collegio. Ecco, questo ha a che fare con Antonina e con la sua storia, con la sua capacità di tirarsi fuori da situazioni di bisogno enorme, di bisogno assoluto, come appunto poter avere dei libri di testo tutti per sé. Ringrazio ancora Antonina Azzotti per la storia che ci permette di raccontare, l'archivio di Aristico che ce l'ha fatta conoscere, Mauro Pescio che continua a raccoglierla.

when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life I love you more. È l'estate, questo momento fantastico in cui tutti tornano a casa. Chissà come sarà quest'estate, com'è quest'estate per le persone che sono rimaste chiuse quei 3 mesi nelle loro case. Chissà che estate sarà in Italia, come la stiamo vivendo. Mi auguro al meglio. Ringrazio ovviamente Mauro Pescio che raccoglie la storia di Antonina Zotti e ce la racconta, grazie ad Anita Panizza, grazie a Luca Micheli, grazie a Paolo Corleoni. Ora ascoltiamo il GR e poi torniamo domani a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.